You're bringing in a completely different issue. Io mi chiamo Sasaki Fujika, sono un autore di Punto in Bianco, mi ritrovo ad essere anche un conduttore radio, la cosa sarà divertentissima, mi piacerà da morire. E mi è stato chiesto, anzi, visto poi di cosa parleremo, facciamo un po' più tetra, diciamo che sono stato mezzo cooptato per fare una trasmissione radiofonica, e il cui titolo sarà Microspie. Parleremo in maniera ridicola, ma anche seriosa, perché no, di massimi sistemi della società, cercando di andare a intercettare quelle che sono magari determinate dinamiche di costruzione della realtà e di distruzione della verità. Insomma, si chiama Microspie perché ci chiederemo come agiscono le spie nel mondo, facendoci pensare che ogni volta che illazionassimo qualcosa del genere, in realtà stiamo parlando di fantapolitica. Ecco, vi chiedo lo sforzo di immaginare che la parola fantapolitica non l'abbiamo mai messa nel dizionario. Avete sentito le sirene, probabilmente, mentre sto incidendo, mi stanno venendo a prendere. Questo significa che questo programma è talmente fatto bene, anzi sarà talmente fatto bene, che non andrà in onda neanche una puntata. Beh, alla prossima, arrivederci. With the fire, I second to read anything that you need to just let me know. We're having a better week as best time to find. E questo era Simone di SasakiFujika.net, che dalle settimane prossime inizierà a collaborare regolarmente con noi sull'argomento di cui vi ho appena parlato. È KickCT, siamo al 13 novembre, qui con noi è Luca Lizzeri di Wikilab, che dovevamo intervistare già da prima, visto che poi stiamo iniziando a collaborare su varie cose, è venuto finalmente a trovarci, gli passo subito la parola che ci racconta un po' di lui e del suo blog e poi dopo passiamo con le domande. Ciao, io sono Luca, il mio blog si chiama wikilab.net, si occupa di un po' tutto quello che ha a che fare con le tecnologie della rete, gli strumenti per il publishing personale e pirateria e libertà digitali. Sono qui pronto a parlare con gli amici di Kix e con voi. Sì, Luca, volevo chiederti di ricapitolare un po' questa cosa di cui stavamo parlando prima di accendere il registratore, che ha delle implicazioni un po' troppo, fin troppo larghe, perché si va dalla pirateria alla sicurezza, ai formati di compressione, al futuro dell'home entertainment e della distribuzione di contenuti via rete. Per cui, se ci puoi raccontare qualcosa di... Partiamo sempre dalla bestia nera, di quello che sta facendo Microsoft, e poi da lì a ruota libera vediamo dove si arriva. Io quello che trovo molto interessante degli sviluppi sul video, sulla musica, su tutto quello che è entertainment in casa, è questa lotta per avere il controllo su come vengono prodotti, veicolati e consumati i contenuti, nel senso che adesso ormai il limite alla qualità e alla distribuzione dei materiali non è più la tecnologia, perché se vogliamo dirla tutta, sinceramente il DVD in questo momento è, cioè la qualità che è ottenibile dai DVD in questo momento è limitata più dall'output che abbiamo in casa, cioè dagli schermi televisivi e dai videoproiettori, dall'amplificatore e dalle casse, che non dal formato del DVD, che comunque si difende ancora abbastanza bene. E la cosa curiosa è come appunto quello che possiamo fare con i contenuti che compriamo di entertainment è fortemente limitato non dalla tecnologia, ma da limiti artificiali, da quello che appunto Microsoft, da quello che le varie case produttrici, da Disney, Time Warner, eccetera, eccetera, decidono che devono fare per mantenere alto il valore dei loro contenuti. Cioè, noi non possiamo consumare, fare copie di salvataggio, fare, consumare come ci piace, fare copie di salvataggio, perché si decide che sono atti pericolosi che possono andare a sottrarre valore ai prodotti di queste case cinematografiche. È anche sull'alta definizione, non si capisce bene se tutte queste mosse per creare nuovi formati siano una cosa per dare maggiore valore aggiunto al consumatore oppure per mantenere controllo rendendo sempre più difficile la diffusione dei contenuti su reti alternative, nel senso che sì, quando il contenuto in DVD diventa trasferibile in rete liberamente, allora si va a rilanciare per avere un contenuto talmente, una risoluzione più alta, un contenuto talmente grande che non può essere facilmente trasferito. Sì, a questo proposito con l'alta definizione si accennava prima all'idea che potrebbero praticamente tirarsi la zappa sui piedi, inciampare da sole le major e Microsoft insieme a loro, tirando fuori prodotti che diventano così grossi che potenzialmente il trasferimento in rete diventa problematico, per cui buttare sul mercato prodotti con supporti fisici che vanno contro a quella che è la tendenza del mercato per la distribuzione via web. Beh, in questo caso sarà interessante vedere se Microsoft e gli altri decidono di cercare di seguire questa strada, sarà interessante vedere chi va a seguire la strada dell'abbastanza buono, nel senso che Microsoft ha costruito il suo successo sull'offrire un software che funzionava abbastanza bene a prezzi inizialmente inferiori agli altri. Adesso c'è da vedere se quando Microsoft va a seguire la strada dell'eccellenza tecnologica nella fornitura dei contenuti, sarà divertente vedere se qualcuno andrà a cercare di segare le gambe a questa iniziativa offrendo contenuti più economici a qualità abbastanza buone, ovvero a qualità cioè un film che in DVX che può essere inviato in streaming facilmente anche su una DSL a prezzi molto più bassi. Cioè ci sono Cinema Now. Mentre loro parlavano, io prima mi ero distratto a fargli una foto che poi vedrete sull'articoletto che si accompagna al podcast, e poi recuperando un po' l'argomento del discorso mi era venuto in mente Cinema Now, che ho visto citato da Russell Bitti qualche giorno fa, che l'ha usato e si diceva abbastanza soddisfatto. È un sito che offre film legali li paghi, li puoi noleggiare per uno o due giorni, dopodiché non diventa più valido il film, oppure comprare e poi te lo tieni. La qualità è quella tipica di un DVX, la comodità è che mentre inizi il download puoi già vederlo, i prezzi sono sui $5, più o meno quello che si paga da un blockbuster per noleggiare un film, per cui mi sembrava più o meno pertinente rispetto a quello che stava dicendo Luca, che rispetto all'altra definizione poi bisogna vedere cosa succede a chi offre contenuti magari di minor qualità ma più economici. Non so se ho colto l'argomento visto che sono arrivato in ritardo. Comunque questo è un esempio che già c'è, funziona, anche se i contenuti sono ancora non di primissima qualità. C'è qualcuno interessante di fascia, diciamo, serie B, tipo film sul surf o film horror o cose così. Ma a me sembra che il fatto che i contenuti non siano di primissima qualità o non abbiano, o magari siano anche volgari piuttosto che scontati, non abbia mai fermato il successo commerciale dell'offerta o di Hollywood o delle televisioni. Me viene sempre da pensare, quando vedo la corsa al ribasso nei costi di produzione che spesso segue la televisione generalista, che per tagliare i costi produce tantissimi talk show e reality TV. Quando il canale di distribuzione alternativo è universale, se qualcuno riesce a costruire questi talk show cioè la televisione perde il monopolio su raggiungere tutte le case degli italiani, perché non è più necessario che avere i ripetitori che coprono tutto il territorio. Sì, infatti, quello è uno degli episodi più clamorosi degli ultimi tempi, è stato quando l'attore comico, cioè l'attore comico, il conduttore di un programma di news americano, Jon Stewart, che produce il Daily Show, che praticamente è un fa le news in maniera comica, però il problema è che da un survey negli Stati Uniti risultano meglio informati sull'attualità i suoi telespettatori che non quelli dei telegiornali di Fox o di ABC. E quando è stato su un programma su CNN, quelli che hanno visto il programma su CNN erano circa 300.000 persone. Quando in rete si è diffusa sui blog la notizia di questa sua presenza e di come le aveva cantate ai presentatori del programma, è stato scaricato un milione e mezzo di volte su iFilm e altro mezzo milione di volte via BitTorrent. Quindi la audience in diretta è stata assolutamente minima rispetto a quella differita grazie alla rete. E questo comincia a succedere piano piano anche se si va a vedere sui siti di BitTorrent come tvtorrents.net, si può vedere i numeri di copie scaricate degli episodi televisivi delle settimane precedenti, ed è curioso vedere come la popolarità degli show televisivi sia riflessa negli scaricamenti, e già adesso gli scaricamenti siano qualche punto percentuale dell'audience televisiva e crescano continuamente. Comunque, appunto, la infrastruttura di distribuzione c'è, servire questi contenuti costa poco, quindi la concorrenza può solo aumentare, e questo penso vada a beneficio, anche se appunto all'inizio verrà data per gli verrà attribuita una pochezza che però non impedirà di crescere piano piano in maniera interessante. Sì, poi se restiamo in ambito televisivo, in America la situazione è un po' diversa, molte TV, soprattutto quelle un po' più con contenuti un po' più interessanti, sono via cavo, la sottoscrizione via cavo si paga qualche dollaro, decina di dollari al mese, però in generale buona parte dei contenuti della TV sono già trasmessi liberamente senza bisogno di pagare, cioè il modello di business è basato sulle revenue della pubblicità, per cui nulla vieterebbe di trasmetterli via internet, mettere a disposizione, come appunto è successo per Jon Stewart, in maniera illegale, mettere a disposizione legalmente con dentro pubblicità che poi, bene o male, vanno comunque a generare delle revenue. E per cui è strano che, visto quello che diceva Luca, visto che i numeri ormai di visione attraverso la rete si stanno avvicinando a quelli televisivi, in qualche raro caso addirittura li superano, e è strano che non le case televisive non si siano ancora buttate su questo, visto che sono numeri che si avvicinano di chi scarica illegalmente questi contenuti. Cosa diventerebbero se i contenuti fossero legali? Infatti spesso i più scaltri sono quelli che su trend di questo tipo sono a volte quelli che lavorano in pubblicità, e si sono viste episodi in cui si è cercato di legare di più pubblicità e contenuto, nel senso BMW ha fatto tutta una serie di corti di qualità anche molto elevata che sono stati messi, sono stati diffusi praticamente solo in rete, ed è questo che succede quando diventa più difficile far pagare i contenuti, siccome qualcuno deve pagare chi li produce. Succederà, quelli che vengono diffusi in rete gratuitamente saranno cose legate molto di più alla pubblicità, al product placement, oppure addirittura saranno degli spot che raccontano qualcosa. A questo proposito io vorrei prenderti subito in contropiede, perché come dici tu, più il contenuto diventa libero e facile da creare, da far girare, più mi sembra di capire che dicessi è facile che diventi infomercial, ossia informazione mischiata la parte commerciale. A questo proposito vorrei chiederti, visto che se ne discute ai ferri corti su internet, cosa ne pensi riguardo ai blog, ossia il contenuto di testo e la pubblicità di testo, specialmente mescolata magari a quello che nella stampa è il pubblico redazionale, più o meno mascherato, poi là è una zona un po' grigia. La cosa fondamentale è sempre patti chiari e amicizia lunga, nel senso che di recente nelle due settimane passate c'è stata un po' una querela a distanza in rete tra, se non sbaglio, Mark Hunter e qualcun altro e Jason Calacanis di Weblogs Inc. Perché Calacanis, che è il fondatore di uno dei due mini conglomerati dei blog, sostiene sì, ci deve essere pubblicità, ma deve essere marchiata nettamente dal contenuto e fuori, deve essere fuori linea rispetto al contenuto, mentre invece Mark Hunter ha fondato una società che, se non sbaglio, si chiama Marquee o qualcosa del genere, che vuole pagare i blogger come strumento, cioè vuole usare i blogger come strumento di public relations, in maniera che loro dicano: dico questo e sono pagato.